Tante volte è raro, ma succede, capita di non avere veramente bisogno di parole per presentare il protagonista di una puntata. È quello che succede oggi. Inizierei con una poesia di Leopardi e un po' di religioso silenzio per ascoltare la voce del protagonista di oggi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei, così fra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. E forse solo lui, solo Vittorio Gassman, con la sua voce inconfondibile, magnetica, può riconciliare gli italiani con Leopardi, con quelle poesie che purtroppo abbiamo scoperto a scuola e siamo stati costretti a impararle a memoria. Erano il nostro ostacolo tra noi e i nostri giochi e i nostri amici, c'erano di mezzo le poesie da imparare. Ecco, Gassman ci fa sembrare tutto bellissimo, una voce, una recitazione che non hanno eguali al mondo. Una volta Renzo Arbore disse: di artisti come Gassman ne nascono forse uno ogni 100 anni. Secondo me quell'Italia lì ne ha avuti almeno 2 o 3. Gassman era uno di questi. Per gran parte della sua vita lui peraltro è stato popolare, riconosciuto, stimato. Questo è anche un vanto. L'Italia non sempre riconosce al primo colpo la statura di un genio. Su Gassman si è giustamente genuflessa per decenni, carriera lunga 60 anni. Pochi però probabilmente hanno conosciuto il vero Gassman, la sua fragilità, la sua timidezza, perché erano nascoste dietro la sua immagine prorompente, l'immagine del mattatore, uomo sicuro, sfrontato. La mia è la storia di una persona goffa, perché a questo punto tanto vale che si sappia, sono fondamentalmente un goffo, una persona che si è mascherata appunto facendo l'attore. Le debolezze, le fragilità di un uomo che è sempre riuscito a nasconderle. Un attore, appunto, che soffre di depressione. E questo è quello che racconta lui nel libro Mattatore di Roberto Bosio. E quelle fragilità Gassman in realtà le ha sempre nascoste, tranne forse negli ultimi anni della sua vita. Lui ha fatto teatro e lo ha fatto da numero uno assoluto e ha vissuto il cinema degli anni d'oro della commedia all'italiana. È diventato uno dei volti più importanti di quel filone così ricco di gloria. E poi ha scritto poi la poesia, poi la sceneggiatura. Insomma, forse tutto questo conferma che la fragilità di un artista può nascondere frutti meravigliosi. Padre tedesco, l'ingegnere civile Heinrich Gassman, madre toscana di religione ebraica. Vittorio nasce a Genova il 1 settembre del 1922, viene al mondo sottopeso, con un naso enorme, così come i piedi, che forse fanno già intuire che da grande sarà un uomo molto alto. Da bambino lui ha un rapporto molto stretto con la madre Luisa, che lo condizionerà in molte scelte. Però lui nutre una vera e propria venerazione per il padre Airi, che è un uomo di 1,90 m, 100 kg di peso. Lui lo descriverà come un papà di sorprendente forza e ancora più sorprendente dolcezza. Però lui quel padre adorato lo perderà prestissimo, a solo 14 anni, e nel 1936 che Eric muore per un tumore, la famiglia a Roma. E allora la madre tira avanti facendo la maestra elementare, la sorella maggiore lascia la scuola, si mette a lavorare. Proprio Luisa è la prima che nota delle caratteristiche particolari in quel bambino. Intanto una memoria prodigiosa che gli permette di ricordare lunghi testi dopo averli letti solo un paio di volte. Poi una grande familiarità con la parola scritta, lo ricorda anche lo stesso Gassman. Scrivevo come tutti i ragazzini, almeno di quella generazione, scrivevo le mie brave poesiole, insomma, cioè un certo interesse, direi un certo amore per la parola, per la poesia, c'era già da prima. Mia madre sospettò questo. Mia madre è stata molto presente nella mia vita, è arcinoto, fra l'altro, almeno fra gli addetti ai lavori, che non sono stato io a decidere di fare il teatro, ma lei. E quindi una stima, perché era una donna con le palle, era una donna forte, incisiva, e che mi ha creato il mio piccolo destino professionale. Tra i 14 e i 16 anni Vittorio cresce di 20 centimetri, diventa muscoloso e eccelle da subito negli sport, tuffi, scherma, calcio, però il suo sport è la pallacanestro. Nel 39 gioca in seconda divisione, poi arriva in Serie A, arriva in nazionale, secondo nella classifica azzurra dei marcatori del periodo. Insomma, è un giocatore grintoso, aggressivo, è molto rigoroso negli allenamenti, 4 ore al giorno. Frequenta a Roma il liceo classico TAS, ma la madre lo convince a iscriversi all'Accademia di Arte Drammatica. Lo fa più che per indicargli una carriera, lo fa come cura, perché il ragazzino è molto timido, ama i silenzi, è introverso, lo racconta lui stesso nel libro di Roberto Bosio dal titolo Mattatore. La mia natura quando ero ragazzino era all'opposto, in un certo senso lo è tuttora, di questa professione così estroversa. Io ero un ragazzino molto timido, tranquillo. Infatti non ho deciso di fare io l'attore, ma lo ha deciso mia madre. Ho dovuto forzare la mia natura vera. Dio l'abbia in pace, non me ne lamento, certo, ma forse non era il mestiere nato per me. All'Accademia i suoi compagni di studio sono Paolo Stoppa, Luigi Squarzina, Monica Vitti, Nino Manfredi, e ce ne sono alcuni che diventeranno amici per la vita: Luciano Salce e Adolfo Celi. La formazione è palesemente quella dell'attore teatrale, perché lui ha la voce, ha il carisma, ha la presenza scenica, abbiamo detto che ha la memoria, mi viene da ridere, insomma, pensando a dei cantanti che oggi per cantare canzoni di 4 righe hanno il gobbo elettronico davanti, e lui invece non ne ha mai avuto bisogno. Nel 41 si innamora di una collega, Nora Ricci, si sposeranno giovanissimi, lui ha 22 anni, lei 19, e da quell'unione nascerà la prima figlia, Paola, matrimonio che dura poco, verrà annullato dalla Sacra Rota. Intanto c'è l'esordio a teatro, 1943, Milano, l'opera è La Nemica, poi si torna a Roma con due giganti, Tino Carraro e Ernesto Calindri, reciteranno assieme in molte opere, commedia, teatro intellettuale, anni di palcoscenici, spesso sotto la regia di Luchino Visconti. E poi nel 45 arriva il cinema, un film dietro l'altro, soprattutto drammi sentimentali, film in costume, niente di degno di essere ricordato. Nel 49 sì, c'è Il riso amaro di De Santis, che è una pellicola che peraltro Gassman non amerà mai, ma è comunque è considerata uno dei primi capolavori del neorealismo italiano. Nel frattempo, nel 1951, conosce la star americana Shelley Winters, si innamorano, si sposano, nasce una bambina, Vittoria. Anche questo matrimonio durerà 2 anni, soprattutto a causa, insomma, dell'assenza di Gassman da casa come marito e come padre. E intanto lui, che in questo momento è il più promettente attore giovane del momento, sbarca in America, gira alcuni film, anche queste sono pellicole che lui disconosce, anzi che lui odia, lo porteranno a chiudere rapidamente la parentesi oltreoceano. Cercarono di fare di me un Latin lover romantico, io tentai disperatamente di spiegar loro che non credevo di esserlo, che non credevo di divertirmi a fare quei ruoli. Ebbi 3 o 4 ruoli di questo genere, uno più ridicolo dell'altro, in film che si chiamavano Sombrero, in cui ero un giovane messicano afflitto da cancro, un reduce polacco, perché più o meno italiano-polacco allora significava la stessa cosa, e così via. Naturalmente i film ebbero un esito molto modesto, feci anche un violinista che tentava di strappare Elizabeth Taylor a un pianista altrettanto improbabile. E allora si torna a Roma. Gassman vuole riprendere con il teatro. Stanno arrivando gli anni 60. Ancora qualche film in costume o pellicole tratte da grandi classici. Però lontano dal palco, dal set, c'è questa Roma che è diventata, insomma, uno dei centri del mondo, della vita mondana, via Veneto. Lo ricorda anche il mitico press agent Enrico Lucherini nel documentario Sono Gassman, Vittorio Re della Commedia di Fabrizio Corallo. A Caffè di Parì c'era Vittorio con De Feo, Fraiano e Vincenzo Tralarico. In queste serate, devo dire piacevolissime, di Via Veneto, Vittorio cominciò a raccontare ai suoi amici che voleva smettere di fare questi film così drammatici, e c'era stata un'offerta curiosa di Monicelli. L'incontro tra Gassman e Monicelli segna l'inizio di un momento storico del cinema italiano. È un momento che oggi veramente si studia nelle scuole d'arte cinematografiche di tutto il mondo, perché nasce la commedia all'italiana. Gassman ha voglia di cambiare, vuole trovare una nuova strada interpretativa, accetta la proposta di Monicelli, che lo vuole in questa strana commedia che lui sta preparando, strana soprattutto per i tempi, e si chiama I soliti ignoti, uscirà nel 58, e Vittorio deve interpretare il ruolo di un pugile suonato, Peppe, detto il Pantera, lievemente balbuziente. Paiocchi Giuseppe, ex pugile. Io, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita, e sempre Forza Roma. Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita. Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria, o tra i laziali è molto maggiore. E per i soliti ignoti Monicelli mette insieme un cast incredibile che va da Totò a Mastroianni fino a Claudia Cardinale. Permette a Gassman questo film di mostrare un lato inedito del suo talento che lo farà diventare uno dei re della commedia all'italiana. Ecco un brano di una vecchia intervista a Gassman fatta dalla Rai. La mia quotazione cinematografica dopo un film così fortunato, e di cui parlo senza imbarazzo perché evidentemente il merito va soprattutto al regista, cioè a Mario Monicelli, insomma la situazione è cambiata in meglio. È cambiata talmente in meglio che adesso semmai si presenta un po' il problema opposto, cioè la difficoltà di ottenere dai produttori in genere e da Cecchi Gori, che è il mio produttore in pianta stabile, dei ruoli drammatici. Dato che i ruoli comici, le commedie cinematografiche vanno molto bene, evidentemente insomma, si ha una certa resistenza a farmi cambiare faccia. Il cinema italiano trova un filone d'oro con grandissimi sceneggiatori, grandissimi registi e con quelli che vengono definiti i cinque colonnelli: Gassman, Tognazzi, Mastroianni, Sordi e Manfredi. E vorrei salutare Fabrizio Corallo, che è un giornalista, un grande esperto di cinema, che peraltro fa il caso nostro perché ha realizzato un bellissimo documentario che si chiama Sono Gassman, Vittorio, Re della Commedia. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Enrico. Dunque Fabrizio, noi con la nostra narrazione siamo arrivati ai soliti ignoti, che è un crocevia, uno spartiacque sia per Gassman ma anche per la commedia all'italiana. E in questa fase del nostro cinema qual è il ruolo di Gassman secondo te nell'ambito dell'esplosione della commedia all'italiana? No, io in questo documentario abbiamo cercato di spostare l'attenzione proprio su questa fase, su questo passaggio cruciale della sua carriera, della sua vita, che lo ha portato dai ruoli drammatici, seri e seriosi del cinema, che lui tutto sommato detestava perché comunque era inarrivabile in teatro, però aveva già da qualche tempo manifestato questa voglia di leggerezza in vari spettacoli teatrali. Monicelli, che lo conosceva bene la vita, si chiedeva insieme agli altri amici di Via Veneto, del cinema, del teatro, dello spettacolo di allora, come mai un attore di quella statura non potesse fare il comico avendo tutte quelle doti così speciali. E allora si impuntò lui con i produttori, che erano un po' scettici, per imporlo come attore brillante, e cambiando un po' la faccia, i connotati, faceva un pugile suonato molto buffo, sì, certo, e certo. In quella commedia corale con grandissimi attori come Totò, Mastroianni e la Cardinale fu in realtà la grande sorpresa, e da quel momento in poi si aprì per lui la grande vicenda della commedia italiana. I soliti ignoti avrà due seguiti, nel 59 per la regia di Nanni Loi e molti anni dopo nell'85 diretto da Amanzio Todini, ma dopo il primo film, quello di Monicelli, che l'Italia scoprirà il Gasman attore di commedie, commedie che raccontano l'Italia con questo gusto un po' amaro, cinico, si sorride, ci si indigna, ci si vergogna di se stessi, è veramente una svolta epocale la commedia all'italiana. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando Vittorio Gassman, uno dei grandissimi della grandissima stagione del cinema italiano. E Gassman ha compiuto questo viaggio tra teatro, cinema, costume, con il suo talento, con la sua arte unica, col suo fisico, coi suoi modi da mattatore, che poi nascondevano anche degli spigoli, intanto una fragilità che è forse tipica dei grandi artisti, ma anche un carattere, come dire, esuberante e spigoloso. E abbiamo un ospite, il giornalista Fabrizio Corallo, che su Gassman ha realizzato un bellissimo documentario. E Fabrizio, I soliti ignoti segna una vera e propria trasformazione di Gassman. Come accoglie il pubblico questo nuovo Gassman? Con entusiasmo, perché si sentiva come un po' rassicurato dal fatto che avesse questo modo di porgersi molto immediato, diretto, senza fronzoli, quasi prendendo in giro l'aura del grande teatro, dell'intellettuale un po' lontano. Invece lui aveva grandi capacità di essere autoironico, di essere leggero, di essere buffo, pure sulla base appunto di una cultura enciclopedica meravigliosa, e capì lui stesso che il rapporto diretto col pubblico, che ovviamente aveva già sperimentato in teatro trionfalmente, sarebbe stato fondamentale anche per il cinema. 1959, Vittorio recita in 4 film e uno di questi è destinato ancora una volta a fare la storia. È un film meraviglioso, se non l'avete visto guardatelo, e se l'avete guardato riguardatelo. La Grande Guerra con Alberto Sordi, diretto da Monicelli, prima commedia nella storia che vincerà il Leone d'Oro a Venezia, e questa nuova notorietà, piena anche di peso, di stima, spinge Vittorio verso la televisione. Quello stesso anno lui è protagonista di uno show per la Rai che non può che chiamarsi Il Mattatore. Il pubblico questa trasmissione l'accoglie freddamente inizialmente, poi lui piano piano conquista tutti col suo talento ed è il suo colpo d'ala in termini di popolarità. E piano piano il pubblico diventa numerosissimo e l'indice di gradimento, come si diceva una volta, va alle stelle. Il Mattatore poi diventerà un film nel 1960 per la regia di Dino Risi. A proposito di Dino Risi, che è un po' il re di queste risate amare che raccontano quest'Italia che sta cambiando, com'era, Corallo, il rapporto tra Gassman e Dino Risi? Era meraviglioso, si adorava. Io ho avuto il grande privilegio di essere grande amico di Risi, a cui ho già dedicato 2 documentari. Risi e Gassman hanno formato un sodalizio formidabile del tempo, dal punto di vista creativo e artistico, ma soprattutto erano grandi amici. Pur essendo molto diversi tra di loro, si completavano a vicenda, si stimavano e si divertivano molto tra loro. Hanno fatto ben 16 film insieme, alcuni memorabili, altri magari certo, fatti in maniera un po' più sbrigativa, ma sempre con dei lampi accecanti e illuminanti sulla società dell'epoca, sull'Italia che cambiava e sulle costanze di sempre, anche i vizi da denunciare che purtroppo, come spesso succedeva ed è successo in seguito con la grande commedia italiana, c'è stato questo grande equivoco e questa grande un po' dannazione per cui le persone più accorte capivano che erano mostri rappresentati per prendere le distanze e denunciare i difetti. Molti altri più sbrigativi e più diretti purtroppo col tempo hanno pensato solo a identificarsi col divertimento e con l'ammiccamento, e la critica e la satira sociale nel resto della commedia successiva è andata un po' perdendosi. Gli anni 60 sono un inanellarsi di pellicole che hanno alone di grandezza ancora oggi, film immortali, Il Sorpasso, La Marcia su Roma, I Mostri, diretto da Risi in coppia con Ugo Tognazzi, sia La Marcia su Roma che I Mostri. Nel 66 torna con Monicelli e dà vita a una delle maschere più originali e durature del nostro cinema, Brancaleone da Norcia, e il protagonista dell'Armata Brancaleone e di Brancaleone alle Crociate. Voi sapete chi io sia? Noni. Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. Mai coverto. Groppone da Figulle fu lo più grande capitan di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome est Brancaleone da Norcia. Peraltro sono anni nei quali Vittorio conferma, insomma, una certa fama di patriarca, di collezionista di relazioni e anche di mogli. Questa fama gli costa critiche. A metà del decennio, per esempio, ha una storia che durerà 3 anni con l'attrice francese Julienne Maynier, da cui nasce il figlio Alessandro. Nel 70 sposa come terza moglie Diletta D'Andrea, che rimarrà al suo fianco poi fino alla fine, e con lei avrà un altro figlio, Jacopo. Insomma, 4 figli da 4 donne diverse, e più una specie di figlio adottivo, già, perché Diletta D'Andrea, prima di stare con Vittorio, era la moglie del suo grande amico Luciano Salce, e con lui aveva un figlio, Emanuele. Emanuele va a vivere con Vittorio quando non ha neanche 2 anni, e il rapporto tra i due peraltro è molto complicato, conflittuale. Emanuele lo ricorda così in un'intervista al TG2. Con Vittorio c'è stato questo tipo così di affettuoso equivoco in gioventù. Lui mi vedeva un po' come un rivale, un qualcosa che si frapponeva fra sé e la donna amata. Però insomma, poi abbiamo avuto anche poi modo di chiarirci, e in un'età di maturità per entrambi, cioè lui verso i 45, io verso i 25, ci siamo anche parlati, chiariti e diventati anche molto amici. E gli ultimi 7-10 anni della vita di Vittorio abbiamo sanato il rapporto, l'abbiamo trascorso assieme anche in maniera, devo dire, assolutamente bella. La vita di Gassman è fatta così: famiglia articolata, numerosa, tanti amici vicini e forse i due più cari, Tognazzi e Villaggio, senza dimenticare Salce, col quale comunque rimane un rapporto di amicizia forte. Insomma, sembrerebbe l'esistenza di un vincente, di un uomo forte, spensierato, di un talento che passa dal cinema al teatro, alla TV, collezionando solo successi, ma passano gli anni, emergono le debolezze, lo racconterà lui stesso in un'intervista. Io non ho molto forte il senso di esistere, ecco. Ho abbastanza frequentemente la angoscia di non esserci. E questo forse va anche un po' di pari passo con un mestiere che è questo, è il rischio continuo del non esserci, che bisogna vedere di non tornare a stare troppo bene, cioè di non lasciare che torni un'euforia che io ho avuto per una 30 anni senza interruzione, e mi credevo sanissimo, e insomma mi sono divertito, ho fatto di tutto, ho speso la macchina, ma era la preparazione chiara agli avvallamenti, poi alle depressioni. Poi sai, ognuno ha una depressione diversa. Poi io in più mi vergognavo quando la vivo, perché ero proprio l'opposto di quello che è la mia piccola figura pubblica, cioè un uomo sicuro, forte. Ma intanto ho scoperto, questo sì, che sono un uomo fragilissimo, sono una bamboletta, un bambino delicato. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Negli anni 70 le commedie al cinema cominciano a rispecchiare sempre di più il periodo buio nel quale l'Italia si sta infilando. Eh sì, sono gli anni del terrorismo, delle tensioni della guerra fredda, più in là arriverà il sequestro Moro. Gassman lavora in tanti film, ancora con Dino Risi lui riesce a prestare il suo volto a questo nuovo stato d'animo nella società. Per esempio nel 72 esce In nome del popolo italiano con Ugo Tognazzi, un film che anticipa l'impeto giacobino giustizialista di Mani Pulite che falcidiò l'Italia, tutto questo con 20 anni d'anticipo. Sempre nel 72 c'è Profumo di donna di Risi, due candidature all'Oscar per il film, altri premi importanti anche a Cannes. Peraltro Profumo di donna è un ruolo che sarà poi di Al Pacino in un remake americano del 92. E poi negli anni successivi c'è un altro sodalizio molto importante, quello con Ettore Scola, con lui c'è una profonda affinità intellettuale. Fabrizio, ci parli del rapporto con Scola, del suo ruolo per esempio nella famiglia? Anche loro, io li ho visti spesso sul set insieme, avevano un rapporto speciale di grande complicità, di grande intesa. Lui, Scola, nel suo cinema ha col tempo portato nella commedia anche un po' dei discorsi più intensi da un punto di vista sociale e politico. Per esempio La famiglia che tu hai citato era un grande affresco di una famiglia che era un po' il simbolo dell'Italia che cambiava, certo, la vista attraverso lo scorrere del tempo in vari decenni del secolo scorso, e quindi il personaggio di Alma cresceva e poi diventava anziano con tutte le varie generazioni. Ma c'è quella scena bellissima finale con lui e Fanny Ardant che si prendono in giro, è meravigliosa. Sì, ormai anziani erano stati amanti in passato, ognuno è stato il grande amore dell'altro, ma la vita li ha portati altrove e quindi comunque mantenevano questo impasto di affetto, ma anche di sarcasmo, di complicità. Era molto buffo. Varrebbe la pena davvero di rivederli. In America Gassman va a recitare per Altman, un altro grande, due film, Un matrimonio e Quintet con Paul Newman, e quando torna trova un'Italia cambiata, sta arrivando quello che veniva chiamato il reflusso, l'edonismo reganiano. Lui continua col cinema ma si riavvicina al teatro, però c'è una presenza invadente nella sua vita che è la depressione che lo accompagna nell'ultima parte della sua vita. Il figlio Alessandro, racconta, ha passato la parte finale della sua vita accompagnato da ombre, e lui cerca di combattere queste ombre stando vicino alla sua grande famiglia allargata e ai suoi figli. I giovani e i miei figli in particolare sono l'oggetto che mi interessa di più di tutta la grande fauna e flora del mondo, proprio perché sono misteriosi, io non li capisco, mi affascinano perché non li capisco, e ho deciso che è meglio non tentare di capirli a fondo, perché io credo che i miei figli mi trovino abbastanza divertente e soprattutto bisognoso di protezione. Il rapporto è capovolto, sono io che ho bisogno della loro protezione più che loro, che sono più forti di quanto si immagini, hanno bisogno della mia. Altro colpo d'ala, nel 92 Gassman porta in teatro un suo spettacolo, Ulisse e la balena bianca, e 4 anni dopo accetterà quasi malvolentieri, spinto dai figli, di girare Slippers in America di Barry Levinson, ciliegina sulla torta, e di un cast nel quale ci sono De Niro e Al Pacino. Sono gli ultimi colpi del mattatore. Gassman muore il 29 giugno del 2000, 77 anni, nella sua casa di Roma. Se ne va nel sonno per un infarto. La morte non mi piace per niente, niente proprio, mi fa anche orrore, trovo che sia di cattivo gusto. Non si dovrebbe morire, insomma, è l'unico errore che ha fatto il Padre Eterno. E poi c'è questo aneddoto del testamento di Gassman. Lui lascia molte indicazioni, alcune i figli riescono a esaudirle, altre no. Ce le racconti tu, Fabrizio, queste indicazioni? È una cosa scherzosa, io ho avuto il privilegio di conoscere bene Vittorio e i suoi figli e la sua famiglia. Una grande fortuna è stato, dopo teatro, a cena, ascoltare racconti, aneddoti divertentissimi, anche molto interessanti. Lui lo diceva spesso scherzando che avrebbe voluto sulla sua tomba queste epitaffio che recitava: qui giace Vittorio Gassman, fu attore, non fu mai impallato, perché sì, per impallare nel gergo del cinema romano significa qualcosa che si frappone tra la macchina, certo, da presa e l'interprete in scena, e quindi evidentemente lui non aveva mai un ruolo secondario, perché anche se stava, certo, lontano, comunque emergeva e svettava. Così come anche aveva chiesto scherzosamente di essere imbalsamato e impagliato, esatto, cosa che evidentemente poi la legge non consente, però erano tutte cose buffe e scherzose. È stato un privilegio. Rambo che diceva nell'intervista che devono passare 100 anni prima che nasca un altro Vittorio Gassman. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Grazie Fabrizio, sei stato preziosissimo. Grazie di tutto. Siete voi preziosi sempre ogni giorno. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Vittorio Gassman, attore, non fu mai impallato, non arrivò mai secondo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite che volete che io vi racconti, visitate le nostre pagine, insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a dopo. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.